può aiutare, non neanche tu, né quegli ipocriti che ogni sera a bottiglia di vino danno la vita per non pensare. Conosci loro, sono mostruosi, siccome quelle donne che ogni estate vengono a chiederti un posto caldo al sole, non lo dare. Pensare.